5 e. Ascolta e replica secondo il modello. Loro hanno aspettato molto. Io ho aspettato poco. Loro hanno lavorato molto. Io ho lavorato poco. Loro hanno camminato molto. Io ho camminato poco. Loro hanno dimenticato molto. Io ho dimenticato poco. Loro hanno ripassato molto. Io ho ripassato poco. Loro hanno viaggiato molto. Io ho viaggiato poco.